Buongiorno Chiesa, come stiamo? Benissimo, ce l'abbiamo fatta venire nonostante traffico e parcheggio, è vero? Per quanto è stata una mattinata un po' stressante? No, non alzare la mano, non ti voglio vedere, no scherzo. Prego che questo momento alla presenza di Dio abbia già acquietato, è vero? Le nostre anime, i nostri cuori e abbia già incanalato bene i nostri pensieri, le nostre menti, che scegliamo che siano focalizzate su Gesù. Amen? E io credo, Chiesa, che oggi, come ogni domenica, come ogni giorno, quando ci avviciniamo alla presenza di Dio, Lui ci voglia parlare e Lui voglia equipaggiare la sua Chiesa oggi. Siamo pronti ad essere equipaggiati? Io vi avviso, il messaggio è ricco. Quanti sono pronti? Bene, oh, questo mi incoraggia molto. Quindi iniziamo subito. Come sappiamo, stiamo dedicando queste settimane, abbiamo incominciato la settimana scorsa, a parlare di quello che caratterizza i membri della nostra Chiesa. Ok? Abbiamo iniziato a descrivere il fatto che una persona si possa sentire membro e non un semplice visitatore quando partecipa. E oggi continuiamo questo percorso che durerà 3 settimane, in realtà è una piccola maratona, parlando della seconda caratteristica che ci descrive in quanto famiglia, che ci descrive in quanto membri della Chiesa di Cristo, che è il servire. A quanti piace? Noi partecipiamo, noi serviamo e ci sono un miliardo di cose da dire, un miliardo di versetti da leggere e interiorizzare e commentare. Per questo non vi garantisco che questo messaggio avrà una struttura, sarà una serie di pensieri che condivideremo insieme, ma voglio iniziare leggendo un verso che ci riporta le parole di Gesù e come Gesù descrive il vero significato del servizio. Penso che sia un punto di partenza ragionevole. Che dite? Quindi leggiamo in Marco 10, versetto 42 e 45. Sono dei versi che conosciamo, però io vi prego di aprire il cuore e di farli entrare. Ma Gesù, chiamatili a sé, i discepoli, disse loro: voi sapete che quelli che sono reputati principi delle nazioni le signoreggiano e che i loro grandi le sottomettono al loro dominio, ma non è così tra di voi. Anzi, chiunque vorrà essere grande fra di voi sarà vostro servitore e chiunque tra di voi vorrà essere il primo sarà servo di tutti, poiché anche io, dice Gesù, anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come mezzo di riscatto per molti. Amen? In questi versi Gesù definisce che cos'è la vera grandezza. E la descrive in un modo che è praticamente l'opposto di come la società d'allora e in realtà anche la società odierna considera la vera grandezza. La nostra società ci insegna che tu sei davvero grande, che tu sei davvero arrivato, che ti puoi sentire realizzato quando c'è qualcuno che ti porta la borsetta, quando c'è qualcuno a cui puoi dare delle indicazioni, che può fare qualcosa per te, che si può dedicare a quello che a te non tanto garba. Gesù qui dice esattamente l'opposto. Se vuoi essere grande, devi servire. Se ti vuoi sentire veramente realizzato, veramente arrivato, nel Regno dei Cieli, nella Chiesa, funziona in una maniera leggermente diversa da quello che vediamo fuori. I grandi si abbassano, i grandi servono i molti. E qui qualche versetto prima c'erano i discepoli che, nonostante vivessero con Gesù, nonostante fossero cuore a cuore con Gesù, ancora questo fatto non l'avevano capito molto bene. E c'era questa discussione che era nata tra i discepoli: chi sarà il più grande tra di noi? Dovrei essere io perché sono più bravo, dovrei essere io perché sono più carismatico. No, ma che dici? Tu parli sempre a sproposito, io dovrei esserlo perché io sono il discepolo che Gesù ama di più. E Gesù dice: per cortesia, ragazzi, fermi tutti. Il più grande sarà colui che si abbasserà di più. Se volete essere grandi, dovete servire i molti. In altre parole dice Gesù: dovete fare come me. Perché io, che sono veramente grande, non sono venuto per farmi servire da voi, ma sono venuto per servire chiunque abbia la necessità, chiunque incontro sulla mia strada. C'è un teologo che dice, Bonhoeffer, solo chi serve veramente gli altri può dire di seguire Cristo. Il servizio non è un'opzione per il cristiano, ma è la sua vera essenza. Se vogliamo essere come Gesù, dobbiamo essere servitori come Lui è stato. Se vogliamo amare come Gesù, dobbiamo imparare a servire gli altri come Lui ha fatto. Se vogliamo servire la Chiesa come Gesù, che cosa ha fatto Gesù per la Chiesa? Ha dato se stesso, ha dato tutto di se stesso per la Chiesa. E allora, se è Gesù che dobbiamo imitare nel nostro servizio, affinché il servizio possa essere vero, possa onorare il Padre, ci dobbiamo chiedere: com'è che ha servito Gesù? Che tipo di servitore era Gesù? E oggi non vi dirò niente di estremamente nuovo, ma io spero che ognuno di noi si possa sentire un attimino compunto, è vero? E si possa chiedere: ok, ma io a che punto sto? Posso fare meglio? Devo incominciare? Queste sono le domande che io vorrei questo messaggio spronasse nei nostri cuori. Gesù innanzitutto è stato un servo disponibile. Possiamo dirlo insieme? Disponibile. Gesù è stato disposto e disponibile a servire chiunque e in qualunque momento. Lo vediamo che ha lavato i piedi, ha toccato i lebbrosi, ha accolto gli emarginati, ha preso in braccio i bambini. Gesù era nella nursery. Ha preso in braccio i bambini, non per intrattenerli, ma per benedirli. E in quel momento lui che cosa stava facendo? Stava servendo quei bambini. Gesù, lo vediamo, e questo mi ha proprio aperto la mente, Gesù ha preparato la colazione ai suoi amici, ai suoi discepoli. La sua colazione preferita era una colazione leggera, pesce e pane. Immaginate Gesù, il Figlio di Dio, Dio incarnato, che prende del tempo per preparare la colazione ai suoi amici. E allora stamattina, chi è venuto qui prima per stare al bar e ha preparato i cornetti e ha preparato il caffè, non hai preparato solo cornetti e caffè, ma hai imitato Gesù in tutto e per tutto. È incredibile. Galati 6 al versetto 10 dice: così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli nella fede. Facciamo del bene a tutti, ma specialmente in chiesa. Serviamo tutti, volontariato, tutto, ma specialmente serviamo i fratelli nella fede, serviamo la Chiesa in questo contesto, ma anche al di fuori di queste quattro mura, ogni volta che c'è l'opportunità. E l'opportunità, cara Chiesa, si presenta in base al bisogno. Non si presenta necessariamente in base a quelle che sono le mie aspirazioni. Non si presenta in base a quelli che sono i miei talenti, le mie propensioni. Non si presenta neanche in base a quelle che sono le mie condizioni. No, io una volta al mese. No, io solo in questo. No, io solo con questa persona voglio servire. No, l'opportunità, e qualunque volta che c'è l'opportunità, buttatevi nel servizio, dice questo versetto, l'opportunità si presenta con il bisogno. E allora la mia prima domanda per noi è: che colazione dobbiamo preparare? A chi dobbiamo preparare la colazione? Nel nostro vivere la Chiesa. Come possiamo servire? Quanto di più possiamo servire i fratelli, le sorelle della famiglia, nella fede? Io questa domanda è necessario che me la faccia ogni tanto, perché posso entrare nella routine, posso entrare anche nella routine delle cose che faccio, del livello di servizio che ho raggiunto, ma io sono compunta nel mio cuore da questi versetti. Ogni volta che c'è l'opportunità vuol dire che c'è di più, vuol dire che posso fare di più, sono chiamata a fare di più. E c'è un servo tra di noi che è l'incarnazione della disponibilità, e questo servo si chiama Carmine Buttiglione. Dove sei? Infatti è lì nell'ombra, al buio. Carmine è un servo disponibile. È vero? Possiamo fargli un applauso? Carmine è sempre pronto a sacrificarsi. Noi lo vediamo l'incontro della mattina, spesso e volentieri, lo vediamo al basso. Dopo che si è esercitato, dopo che ha imparato gli accordi, dopo che ha capito bene bene il tempo di queste canzoni complesse con me, dopo che è venuto alle 8 per le prove, lo vediamo l'incontro di mattina qui a suonare il basso, e poi all'incontro di sera lo vediamo o che fa il runner, o che è dietro la telecamera, o che è al bar. Carmine è un servo disponibile. Perché non lo fa sempre e solo perché ha tanta voglia di stare in chiesa. Lo fa perché molto spesso manca qualcuno e lui è pronto a prendere il posto di questo qualcuno che manca. Carmine è disponibile. Quanti vogliono essere come Carmine? E domani il nostro Carmine parte. Lui se ne va per 3 mesi. E andrà, indovinate, a fare cosa? A servire una chiesa in Inghilterra, in un quartiere di Londra. Lui farà un programma di tirocinio che durerà per 3 mesi. E in questi 3 mesi mi ha raccontato che praticamente dovunque ci sarà il bisogno, lui servirà. Quanti vogliono essere come Carmine? Carmine è un servo disponibile, e io vi sto dicendo questo per elogiarlo, per onorarlo, ma anche perché dobbiamo tenerlo nelle nostre preghiere, perché andare in un paese diverso per 3 mesi, con una lingua diversa, servire una chiesa con una cultura diversa, con modi di fare diversi, non è facilissimo, è vero? Quindi Carmine ha bisogno delle nostre preghiere, e noi pregheremo per te, e Dio si userà grandiosamente di te. Amen. Gesù è stato un servo disponibile. Gesù è stato un servo fedele. Diciamo insieme? Lui non lasciava mai il lavoro a metà. Lui incominciava qualcosa e la portava sempre a termine. Nella sua umanità, se ci pensate, ha chiesto pure: Signore, non mi far andare fino in fondo, per piacere, la croce. Però ha portato la sua missione fino in fondo, è stato fedele fino alla morte e alla morte di croce. Servire la Chiesa come Gesù vuol dire essere fedeli. Amen? Vuol dire non lasciare un lavoro a metà. Vuol dire non incominciare con i fuochi d'artificio, e poi lasciare l'opera, lasciare il servizio incompleto. Vuol dire che essere fedeli vuol dire portare avanti l'impegno, il servizio che abbiamo scelto di fare, anche quando è meno entusiasmante di come pensavamo, anche quando è un po' più difficile di come pensavamo, anche quando siamo capitati in un gruppo che il capogruppo proprio a me non mi va giù. Posso incoraggiarci, Chiesa, ad essere fedeli, ad essere dei membri che servono in maniera matura? Posso incoraggiarci a fare meglio? Posso incoraggiarci a non nasconderci dietro la frase «No, è cambiata la stagione». Io non ho mai capito questa frase. Tante volte io mi alzo la mattina e non voglio andare al lavoro. E mi dico «È cambiata la stagione, vorrei tanto non andare al lavoro». Però mi alzo e vado a lavorare. Posso incoraggiarci a vivere il servizio con questa serietà, con questa maturità, imitando Gesù. E Lui ha portato a termine, fino alla fine, nonostante gli sia costato molto, la missione per la quale è venuto su questa terra. E allora, se è vero, Chiesa, che non ci dobbiamo pensare due volte per iniziare a servire, forse dobbiamo imparare a pensarci un po' di più prima di abbandonare quello che abbiamo iniziato. Che dite? Possiamo farlo? Secondo me è importante. C'è questo teologo, uno scrittore, un teologo contemporaneo che dice: servire Dio è un privilegio, non è un peso. Quando capisci chi ti ha chiamato, la stanchezza diventa adorazione. Io qui capisco che la stanchezza non può essere una scusa, non può essere una ragione per lasciare il lavoro a metà, ma può essere un mezzo per adorare ancora di più il nostro Signore, perché io non offrirò a Dio un sacrificio che a me non costa nulla. E quindi porterò a termine quello che ho iniziato anche d'estate, anche se ho un figlio di un anno, anche se la notte non si dorme, io continuerò a servire la Chiesa in maniera fedele, perché Dio me lo domanda, perché Dio mi ha chiamato, perché non sto servendo solo nell'area di servizio, ma attraverso l'area di servizio sto servendo il mio Signore. Amen? E lo voglio fare come Lui mi insegna. Gesù è stato disponibile, è stato fedele ed è stato umile. Lo diciamo insieme? Umile. Lo diciamo insieme? Umile. Ok, ok. Nella sua umanità, Gesù non ha mai cercato l'autopromozione. Non si è mai, ricordiamoci, lui era uomo, era un uomo al 100%. Quindi segni e prodigi potevano diventare un motivo di autopromozione, un motivo di ricerca dei riflettori. Però Gesù non ha fatto questo, anzi tutto il contrario. Ogni volta che Gesù faceva un miracolo, la maggior parte delle volte, che cosa diceva? Non lo dire a nessuno, non lo dire a nessuno, ma vai al Tempio e adempi la legge mosaica. Vai al Tempio, presentati al sacerdote e offri il tuo sacrificio di ringraziamento secondo quello che la legge mosaica insegnava. Gesù non ha mai cercato i riflettori, ma Gesù è stato disponibile, fedele, umile, anche quando nessuno lo vedeva. Ed è così che noi, Chiesa Pieno Vangelo, vogliamo servire la Chiesa, il mondo e certamente Dio prima di tutto. Serviamo rispondendo al bisogno reale che c'è, anche quando nessuno ci vede, anche quando siamo nell'ombra, anche quando nessuno ci dice grazie. Perché sapete che c'è scritto in Matteo 6? C'è scritto che Dio Padre, che vede nel segreto, ve ne darà la ricompensa. E allora qui nella nostra chiesa ci sono persone che da anni servono fedelmente, sono disponibili nell'ombra, nessuno li vede. E probabilmente noi non gli diremo neanche grazie, ma Gesù ti vede. Ma Gesù vede il tuo sacrificio, Gesù vede il tuo servizio e ti benedice e ti onora e te ne darà la ricompensa. Amen? È così. Quindi non scoraggiamoci. E se ci dà così tanto fastidio che nessuno ci veda, e se ci dà così tanto fastidio che nessuno alla fine ci dice grazie, fermiamoci, chiediamoci, ma io perché sto servendo? Chi è che sto servendo? Ho bisogno veramente del grazie? Posso dire tra parentesi chiesa, diciamocelo, perché se uno c'ha bisogno del grazie, eppure è buono che glielo possiamo dare, glielo possiamo dire questo grazie, che siamo riconoscenti, però capite quello che sto cercando di dirci? Per chi stiamo servendo? Per avere la gloria dal pastore, per avere la gloria dal capogruppo, per avere la gloria dalla chiesa che dice mamma mia guarda che brava come sta servendo sempre, oppure nel segreto io faccio comunque il mio servizio con eccellenza perché so che se anche gli altri non mi vedono, Dio mi vede. Questo è lo spirito giusto e c'è una serva tra di noi, c'è una volontaria tra di noi che è sempre molto disponibile, fedele ed è anche umile. E questa è Sara Tisci, cioè Sara Tisci. Ma come? La vediamo sempre sul palco, tutti la vediamo. Sara Tisci, prima di venire qui, sta ore e ore a servire nella sua cameretta per imparare gli accordi, per imparare il tempo, per imparare le parole della canzone. Ma anche Sara Tisci, durante la settimana, periodicamente viene qui per lavare la nostra chiesa. E periodicamente Sara Tisci è su, lì, dove nessuno vede, dietro al computer, che prepara le slide. E periodicamente Sara Tisci incontra delle ragazze per impartire gli insegnamenti del percorso 1 e per accompagnare queste ragazze verso il battesimo. Quanti lo sapevano? Sara Tisci lo fa nel segreto, lo fa fedelmente e Dio gliene darà la ricompensa. Amen. E noi siamo così tanto benedetti da lei. E lei ultimamente ha servito la Chiesa al di fuori di queste quattro mura. L'ha servita attraverso un viaggio missionario, un viaggio che ha fatto in Asia centrale, dove è andata a trovare la nostra Giulia con un altro gruppo di ragazzi, e lì hanno visto il bisogno e si sono sporcati le mani e hanno servito. E quindi voglio invitarla qui per darle la possibilità. Sara, dove sei? Ah, eccoti. È vero, nell'ombra, però insomma. E, Sara, raccontaci. Sì, Clemente, perché non ho tantissimo tempo. Quindi, molto brevemente, come hai servito? Cosa sei andata a fare in questo viaggio? Va bene, se Diana puoi mandare la foto. Questo è il riassunto molto divertente del nostro viaggio. è stata, a parte gli scherzi, è stata una bellissima esperienza dove abbiamo potuto toccare per mano in realtà quello che sta dicendo Noemi, cioè il privilegio di servire in un altro paese e soprattutto di essere serviti. Abbiamo toccato con mano vite che vivono veramente la Bibbia. Abbiamo toccato per mano vite che amano la propria nazione, amano il prossimo, fratelli e sorelle che neanche conoscono, e vi posso dire che ha lasciato sicuramente un'impronta nel nostro cuore, in tutti. Penso che posso parlare a nome di tutti e dire che veramente è stato un viaggio bellissimo. E se volete ascoltare di più di quello che Dio ha fatto in noi, di quello che abbiamo vissuto, potete venire mercoledì 12 alle 19, che ognuno di noi racconterà un po' di più di quello che è stato questo viaggio. Grazie. Quindi il 12 novembre hai un appuntamento, ok? Alle 19 devi venire qui per ascoltare il resto del gruppo che è andato in Asia centrale con Sara per, io credo principalmente per celebrare. È vero quello che il Signore ha fatto attraverso di loro, per ringraziare quello che il Signore sta facendo dall'altra parte del mondo e per essere partecipi, per partecipare all'opera che il Signore sta facendo. Amen? Quindi alle 19, il 12 novembre, tu sarai qui. Amen? Benissimo. Gesù, servo disponibile, fedele e umile, ha creato la Chiesa affinché questo esempio potesse essere replicato da noi. Era questo che aveva lui in mente quando ha chiamato Pietro, Giacomo e Giovanni. Aveva in mente che lui, che loro, dopo la sua morte, avrebbero portato avanti l'esempio che Gesù stava dando a loro. Gesù ha detto, non ha detto io edificherò la mia chiesa da solo. L'avrebbe potuto fare? Certamente. Posso dire, forse avrebbe fatto certamente un lavoro migliore, certamente in meno tempo, ma ha scelto di edificare la sua chiesa attraverso un esercito di volontari, un esercito di volontari fedeli, umili e disponibili. La chiesa da Dio non è mai stata pensata per un luogo dove si viene, ci si siede, si ascolta il messaggio e ci vediamo domenica prossima. No, la Chiesa è stata pensata come un corpo a cui si appartiene e che cresce in base al vigore delle singole membra. Un posto dove si viene, si ascolta il Vangelo, si è equipaggiati dalla parola, ma poi attraverso questo qualcosa scatta in noi e questo qualcosa ci fa dire ok, io ho ricevuto questo perdono, ho ricevuto questa grazia, ho ricevuto questa salvezza, adesso che cosa devo fare? Devo rispondere in un qualche modo a questa grazia ricevuta. E allora è che noi serviamo non per essere amati, non per essere salvati, ma come una conseguenza naturale. Io servo perché sono stato tanto amato e in un qualche modo devo rispondere a questo amore amando la Chiesa come Gesù l'ha amata. Spurgeon ha detto: un cuore che ama Dio, ascoltate, è bellissimo, un cuore che ama Dio non può starsene ozioso. Chi è salvato vuole servire, non deve, vuole servire. E io posso aggiungere, non sia mai Spurgeon, però mi permetto, chi è salvato vuole servire ed è anche stato completamente equipaggiato per farlo. 1 Pietro 4,10 dice: ciascuno secondo il dono che ha ricevuto lo metta a servizio degli altri. Sono andata a cercare nel greco questo ciascuno, che significa? Significa ciascuno, significa tutti, significa non c'è nessuna eccezione, tutti quanti. Noi abbiamo ricevuto un dono, un talento, una predisposizione, una passione, non parliamo di chiamata, qualcosa, una capacità, un'abilità che possiamo mettere al servizio degli altri. Allora la mia seconda domanda per te è: qual è? Che cosa è stato messo nelle tue mani? Che cosa sei capace a fare? O cosa ti piacerebbe imparare? Il tempo, le risorse, i soldi, puoi mettere quelli a disposizione per servire la Chiesa, anche quello è servizio. Allora che il tuo dono sia insegnare o accogliere, che sia prenderti cura delle persone o amministrare i soldi, che sia evangelizzare oppure usare la musica come strumento per servire, la Chiesa è il terreno giusto per mettere a frutto questi talenti. E quello che ho detto non è che me lo sono inventato, però qui noi quando pensiamo ai doni pensiamo solo alla profezia, alle guarigioni, le opere potenti, parlare in lingue, l'interpretazione delle lingue, però ci sono degli altri doni. Vedete? Aiuti, amministrazioni. Allora io ti incoraggio, fai una foto a questa e chiediti, tra queste cose io dove mi vedo che posso dare il mio contributo? E dopo che ti sei chiesto questo, vai da Luciana, vai dal pastore, vieni da me e di io vorrei mettere a frutto questo talento, vorrei mettere a frutto questa capacità, perché è così che la Chiesa cresce, è così che Dio vuole edificare la sua Chiesa. Non ci possiamo aspettare che il pastore faccia tutto, perché in fondo lui è pagato. L'ho detto davvero. Perché forse è un pensiero che ci è venuto. Non ci possiamo aspettare che Luciana o Luigi facciano tutto, perché loro sono dipendenti. Il pastore ha la responsabilità di insegnare, di equipaggiare tutti noi affinché come conseguenza del suo equipaggiamento noi capiamo quali sono i nostri doni e le nostre abilità e le possiamo mettere all'opera. Questo è il modello di Chiesa che Dio ci ha dato nella sua parola, non il contrario, assolutamente. E quindi che il tuo dono sia quello della leadership, di organizzare o di fare servizi pratici, mettilo all'opera. E la Chiesa ci dà un sacco di occasioni per farlo. Una di queste occasioni ci saranno le mattine del venerdì 14 novembre e sabato 15 novembre. Lo sapete cosa andremo a fare come Chiesa? Un servizio che sembra molto poco spirituale, molto molto pratico. Andremo a raccogliere le olive. A Ruvo, il rifugio, produce delle olive. E siccome Dio vuole edificare la sua Chiesa non con professionisti e con lavoratori che hanno quel mestiere, ma lo vuole fare con noi, che mettiamo a disposizione il tempo e due braccia, tutti quanti noi siamo chiamati, siamo invitati a investire quel venerdì, quel sabato, per andare a raccogliere le olive. E questo è servizio, questo significa serviamo insieme, perché raccogliendo l'oliva io posso fare amicizia con un fratello che non conosco, raccogliendo l'oliva io posso pregare per quel fratello che non conosco, raccogliendo l'oliva io posso vivere la Chiesa non tra le file come ha detto il pastore la settimana scorsa, ma in cerchio, ce lo ricordiamo? Cioè è di questo che stiamo parlando. La cosa bella di questi messaggi è che veramente li possiamo mettere subito in pratica. Ora io mi chiedo, lo faremo? Vogliamo? Ma il sabato è l'unico giorno che ho a disposizione. Io non è tutti i sabati, un sabato. Ma io non ho tempo. Ce l'hai? Amministralo bene. Ma io non lo so fare. Provaci. E così la Chiesa cresce. E voglio concludere. Io lo so che non lo facciamo. E noi siamo una Chiesa veramente che è piena, è stracolma di volontari che sono disponibili, che sono fedeli e sono umili. Però io ci incoraggio, Chiesa, a non vivere il nostro incontro, la nostra vita di Chiesa, come l'ennesimo servizio di cui usufruire. Signore, rispondimi. Signore, ascoltami. Signore, io voglio ricevere. Signore, io voglio. Noi non siamo così, io lo so. Però so altrettanto bene che questo atteggiamento è un pericolo, che è dietro l'angolo. E questo pericolo si concretizza nei periodi di stanchezza, nei periodi di stress, nei periodi di scoraggiamento o dietro una delusione che abbiamo potuto avere. E sapete come ci rendiamo conto che siamo cascati in quel periodo, in quel pericolo? Dalle nostre parole. E oggi l'accoglienza non è stata molto accogliente. Oggi la lode, mamma mia, mamma mia. Oggi i bagni, li ho visti che sono stati più puliti. Quando incominciamo a parlare in questa maniera, dobbiamo fermarci, dobbiamo, posso essere pratica, me lo permettete? Chiudere la bocca e sporcarci le mani, coinvolgerci. Perché questo, il vero antidoto non è la preghiera, è che ci coinvolgiamo. Perché quando ci coinvolgiamo abbiamo meno tempo di lamentarci e di cadere nel giudizio. E allora se i bagni non erano così tanto puliti, mettiti nel gruppo dell'eccellenza. Se l'accoglienza non ti è piaciuto tanto come ti ha mostrato il posto a cui sederci, fai parte tu. Se qui c'è un servizio che tu pensi che proprio ci sia bisogno e non c'è, piuttosto che andarlo a cercare altrove, o tediare il pastore, o lamentarti, incomincia tu. Sai che bella chiesa che saremmo? E noi siamo questa chiesa. Ma penso che c'è sempre un margine di miglioramento, o no? Certe volte io ho pensato questo. Tutti quanti siamo colpevoli, è vero, siamo colpevoli di questo. Ma possiamo fermarci, zittirci e coinvolgerci di più. Amen? È così che si edifica la Chiesa. È così che la Chiesa cresce. Lavorando insieme in qualsiasi stagione per un unico obiettivo. Gesù in Marco ha detto: se dai un bicchiere d'acqua, se hai dato la bottiglietta al bar, se hai sorriso all'entrata, se hai suonato un accordo qui, se hai dato un abbraccio nell'atrio, se hai fatto una preghiera nel tuo gruppo familiare, se hai aperto casa tua ogni 2 settimane perché guidi un gruppo, tu stai edificando il regno dei cieli. Tu stai edificando la Chiesa. Ogni servizio che offriamo ha un valore eterno. E sapete, quando qui c'è il predicatore che poi fa l'appello alla salvezza e ci sono persone che alzano le mani, e tu diciamo, ma ha pregato un bel messaggio e quindi le persone stanno alzando le mani. Non è così. Perché l'invito a quella salvezza è iniziato nella stradella, con un volontario che con il cartello benvenuto a casa ti ha accolto. È incominciato al bar quando qualcuno ti ha dato il caffè. È incominciato qui quando qualcuno è venuto alle 7:30, alle 8 questa mattina per preparare le luci, per preparare le slide. Poi il predicatore è venuto, ha predicato e l'appello ha ricevuto una risposta. Tutti quanti noi abbiamo servito volontariamente per quel momento. E quel momento ha un valore eterno, per il quale tutti quanti, per grazia di Dio, abbiamo contribuito. Uno Corinzi 15:58 dice questo. Fratelli miei carissimi, e voi siete i miei fratelli carissimi, io vi voglio tanto bene, vi amo e credo che siamo una chiesa meravigliosa, amata, che ci amiamo, che ci serviamo, che viviamo tutto quello che stiamo dicendo, che vogliamo fare meglio fratelli miei carissimi, state saldi, siate incrollabili, siate abbondanti sempre nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana. Quindi rimaniamo saldi, rimaniamo incrollabili, continuiamo a servire, iniziamo a servire, perché nulla di quello che noi facciamo è vano. Il Signore lo vede, il Signore se lo ricorda e il Signore lo ricompensa in questa terra oppure quando lo incontreremo e ci dirà: ben fatto, servo, serva, volontario, volontaria, ben fatto, sei stato buono e sei stato fedele. Chi vuole sentire questo? Io lo voglio sentire. E quindi l'invito è questo, a pensarci, a esaminarci e a chiederci: sto facendo veramente tutto quello che posso? Posso fare un po' di più? Oppure, come sto facendo quello che sto facendo? Come sto servendo? Devo zittirmi e coinvolgermi? Devo fare un check nel mio cuore? Il Signore lo sa. E qui non ti giudica, qui ti aiuta, qui ti ammaestra e ti equipaggia. E noi stiamo per vivere la cena del Signore, che è un modo, lo sappiamo, che ci ricorda, ascoltatemi, il perché noi possiamo servire la Chiesa. Perché noi possiamo servire la Chiesa perché Gesù è morto ed è risorto per noi. Noi possiamo servire la Chiesa perché da un destino di dannazione eterna siamo stati chiamati dalle tenebre alla sua luce. E Gesù, quando ci ha chiamati, ci ha salvati, non ci ha salvati solo per darci la vita eterna, solo tra virgolette, ma ci ha salvati affinché noi anche potessimo vivere una vita di proposito qui su questa terra. Una vita che, come la mette Efesini, sia degna della chiamata che abbiamo ricevuto. E quindi mentre ci approcciamo a vivere questo momento che è sacro, coinvolgiamo certamente Gesù. Chiediamogli aiuto se abbiamo visto che c'è qualche cosa che dobbiamo mettere a posto. Ringraziamolo se che possiamo far parte di una chiesa sana, che c'è posto per noi, per il servizio. Amen? Vi piace? Quindi ci alziamo. Io adesso pregherò per il pane, per il vino e poi in maniera ordinata, in maniera matura, chiunque è stato battezzato da adulto può partecipare alla cena del Signore. Se invece non sei stato ancora battezzato da adulto, allora sfrutta questo momento per parlare con Gesù, per riflettere su quanto hai ascoltato e per chiederti: perché non sono ancora battezzato? È sempre una domanda buona da farsi. Signore Gesù, grazie, perché tu ci rendi famiglia, tu ci rendi chiesa. Grazie Signore perché tu vuoi edificare la tua chiesa, il tuo regno, non con persone che sono capaci, con persone che sono professioniste, ma con volontari che sono appassionati per te, sono appassionati per la tua causa, sono appassionati per il tuo nome. E Gesù, io prego che queste parole possano entrare in profondità nel nostro cuore e che noi, da essere una chiesa già così tanto attiva, così tanto volenterosa, così tanto fedele, possiamo dal punto in cui siamo crescere, mai indietreggiare, ma crescere ascoltando la tua volontà e mettendo in pratica quello che tu ci chiami a fare. Gesù, io benedico il pane, benedico il vino, benedico questo momento, grazie che possiamo viverlo perché tu sei morto per noi, tu hai perdonato i nostri peccati, tu ci dai la vita eterna, tu ci dai una vita di proposito qui, perché non sei solo morto, ma sei anche risorto. E noi crediamo nell'unico vero Dio che è vivo oggi. Nel nome tuo benedici questo tempo e trasforma ancora le nostre vite. Amen.